durante la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Poc'anzi, si va iniziando anche questa ultima puntata del 2020 30 di gennaio. Questo è l'avviso di disconnessione, quindi. Entrerete al solito in un regno, in un territorio, o forse meglio in una repubblica, o forse meglio in un luogo senza, in assenza di poteri, dove regna essenzialmente il caos. E dove lasceremo fuori tutto quello che riguarda il consumo, la produzione. E nella... nel delirio buono, in quel caso ferrecchiano di tanto tempo fa, ora delira e basta. Nel delirio creativo, diciamo, c'era il produci, il consuma e il crepa. E a quanto pare questo è il tempo in cui si crepa. Quindi, benché avete adesso barcato l'avviso di disconnessione, vi ricordo che comunque siete all'ascolto dell'emittente Radio Onda Rossa dal 1977, libera nell'etere, romana e laziale, libera da padroni, da padrini politici, da pubblicità, ed è libera grazie a... è indipendente e autonoma grazie al vostro contributo che da sempre sostenete la radio. E lo fate sottoscrivendo al 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. Di servizio ricevuto e messo in playlist, anche se è una bozza, però una bozza interessante. Nel frattempo, se spostiamo, se muoviamo il cellulare, se scroscia tutto qua. Quindi vi ricordo, www.ondarossa.info, ci sta una pagina intera in cui, oltre a quello che è la modalità del conto corrente postale, potrete andare a verificare come poter sottoscrivere per la radio. Andate su Sostieni, sulla pagina della radio ci trovate pure un sacco di roba, di podcast, di registrazioni, di redazionali, di trasmissioni, eccetera, eccetera, eccetera, corrispondenze. C'è un pezzetto di storia della radio se non la conoscete ancora. 06491750, ma qui non vi risponderemo questa notte. Voi fate uguale. Chissà che non ne percepiamo le vibrazioni da remoto. Onda rossa chiocciola ondarossa.info. No, mi veniva da ridere perché una volta c'era Onda Rozza. Scherzavamo noi dalla redazione, i compagni e le compagne. La mail per i vostri comunicati alla radio 25 o'clock 25, scritta al numero chiocciolondarossa.info, qualora voleste disturbare il sottoscritto. E a un certo punto abbiamo deciso, domani iniziamo così, che poi è oggi e adesso. questo si percepiva chiaramente, era un vecchio live registrato così con dei mezzi. Piuttosto arrangiati. Si tratta di uno dei quei bootleg che tanto si trovavano sulle bancarelle o nei più infimi negozi di dischi a molti anni fa, insomma, quando c'erano ancora le bancarelle e i negozi di dischi. Ovviamente una versione live di Coco, Big Brother and the Holding Company, disco del 1967 di esordio della band e pressa poco di esordio anche di Janis Joplin. Tanto più che poi appunto nei bootleg e nelle volte successive questo brano viene attribuito direttamente a Janis Joplin, con la precisazione che a scriverlo fu il bassista dei Big Brother and the Holding Company. E cioè Peter Albin. Quindi una danza sfrenata, trascinante e tribale, targata 1967. Invece andiamo al 2020, dove c'è una macchina che parte.

cosa è molto semplice, qualche ora fa, qualche giorno fa. Si ascolta così di sfuggita la... la forma d'onda che state ascoltando ora. In una versione però differente, una cover molto più recente, resa quasi folk dal brano Trip Top Trip Pop del 1998. Targato Massive Attack, il gioco è fatto, cioè eravamo praticamente dimenticati di queste armonie. Persino l'automatico di Radio Onda Rossa, che è la compagna automatica che ha una memoria storica e una resilienza e una resistenza e una refrattarietà ai cambiamenti, ha dimenticato Teardrop dei Massive Attack, perciò ecco la riproposta, anche perché sotto queste note diciamo, sotto queste note andiamo a presentare invece un lavoro recente uscito dopo 20 anni che la band si era sciolta. Stiamo parlando di Juno 44, una formazione che appunto già negli anni 90 ci aveva fatto molto piacere di ritrasmettervi durante Next Time, a questo punto, perché 25 O'Clock è del 2002. In realtà si tratta di un disco che va a riprendere produzioni vecchie, proprio di 20 anni almeno, per quanto riguarda la band. Mandarli perché proprio in occasione della presentazione di questo libro, di questo disco, hanno invece parlato e detto queste parole in questo difficile periodo, difficile per la musica, per l'arte e per tutta l'umanità. Abbiamo trovato un posto dove focalizzare la nostra energia e il processo di realizzazione di questo disco ci ha fornito un'idea di rifugio. Racconta ancora a proposito della scelta del titolo del disco: questa musica è fatta con amore, la nostra intenzione è quella di condividere questa nostra gioiosa idea di rumore con coloro che lottano per essere liberi. La nostra musica ha come fine ultimo la sopravvivenza in un mondo in cui governino dignità, uguaglianza, rispetto e senso di comunità. Insomma, questa è Revisionist, il cui titolo completo è di difficile, vediamo se riusciamo a leggerlo tutto. Non ci riusciamo, vabbè, ve lo leggiamo un'altra volta. Comunque, questo è Cardiac Atlas e poi a chance to cure is a chance. Cut Your, e anche qui è difficilissimo, Your Face, Matmos Remix. Infatti si tratta appunto di tracce vecchie riproposte, risuonate, reincise, insomma tutta da capo. Eccoli qua, Juno 44, con estremo piacere, perché abbiamo veramente gradito i suoni, come dicono loro, riattualizzati di questa uscita. above your right breast. He makes a tiny cut just above your right breast. The tone. your chest. He makes a fire here and warms the giant sky inside your chest. Thank you.

ascoltato di seguito le due proposte di Velester, in cui ci siamo permessi di mettere lo zampino, e poi Splendid, un'uscita del 2009, non ci ricordiamo l'anno, e c'è uno split di quattro bande LVTN. Vabbè, poi faremo una parentesi anche su questo. Pan, Kratzer e RHA, un disco uscito su vinile un po' di tempo fa, ci è stato portato direttamente in radio, abbiamo pensato di riproporlo finalmente. Loro si chiamavano inizialmente Leviathan, poi LVTHN e poi infine LVTN. Questo per non rincorrere in omologie, omografie. E soprattutto inequivoci. Invece volevo mandare Song 29 per quanto riguarda Pan, dovrebbero essere una band tedesca, non sappiamo nulla, usiamo il condizionale, perché il bello di avere musica bella è anche questo, mandarla e basta. Poi magari il buon Marco, quando sarà all'ascolto, se lo incontreremo, chissà che, prima dell'apocalisse finale, magari ci chiarirà, ce l'avrà sicuramente detto tutte le storie, ma non ce le ricordiamo, anche perché appunto questo disco Le Leviathan l'avevamo presentato in diretta proprio a 25 o'clock, in realtà uno split appunto 2-2-2-2 o qualcosa del genere. Volevamo appunto ascoltare la Song 29, ma a parte la versione in vinile non siamo riusciti a reperirla da altrove, e quindi abbiamo mandato la song 27 che sta sul disco, e altrettanto quasi quasi ve la mandiamo da capo, perché ci abbiamo veramente blaterato sopra, quindi da capo song 27.

one. I promise I cheap work love one. Gotta talk about love. You say you love, why can't you show love? Every day by day, people talk about love. Bravo! E così abbiamo alle spalle anche questo dannato 2020. Vi auguriamo e ci auguriamo un 2021 di lotte. In cui per il dannato virus gli schemi di potere, le pratiche di potere hanno incrementato la loro aggressività, hanno assaggiato la loro capacità di assuefare. Il potere, per come si dispiega, è essenzialmente pratica, esperimento, pragmatica. Quel che funziona va, e quel che ha funzionato è essenzialmente un apparato sordo, mutamente repressivo. E non vorremmo assolutamente che questo possa replicarsi. Per far ciò occorre alzare la testa ovunque e in ogni momento. Questa è Radio Onda Rossa. Legbe piramide 46 minuti dopo la mezzanotte. Aye yi kereko moniki lo definitely up on vanity no winning love gone winning in the love gone aye yi o love gone melo le pe gone money o kereko why you come dey why e maya bi pe o te tan gone eyin melo. www.ondarossa.info. Vi ricordiamo, vi rammentiamo che la radio vive grazie ai vostri contributi in tutte le forme e in tutti i sensi, anche il contributo economico. E il sito www.ondarossa.info, testè citato, serve proprio per andare a vedere come fare per sostenere questa radio. Just in Europe to put for the table, just to make things work up fine for us to live fine, just to make things look good for us to live in a good condition, good environment, good facility, electricity. Let's make one mind and live together. Peace of mind, let's live with a peace of mind, with unity, take my fall. Africa to deal with, Africa to deal with, Olu Missy Mizu, Bravo Neo, Gali. E perciò tutti e tutte domani ci vediamo sotto Rebibbia, ove appunto il ci vediamo è un ci stiamo comunque con il cuore, con l'anima, con la mente, insieme a tutti e a tutte voi. Questo non ci esime anche in questa notte di dare il nostro abbraccio più forte a tutti i detenuti e le detenute, a tutte le persone costrette a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, i centri di detenzione per migranti, nonché tutti e tutte coloro che sono costretti a decreti amministrativi che li tengono lontani dalle loro case, dal loro lavoro, dalle loro terre. We come from Africa, we Africans. We do our things like the Africans. We African, we genotype, nanotype. See our things are naturally. Do our things with our own brothers. We got our brothers. We live a family back in Africa. We ain't in Europe. Just us, just to put the food back in our table. We're enemies, are looking at us, striving like they keep us starving. We wanna cross the border, got the father, mother, fathers. We hustle, we grumble, never stumble, nada. We looking noble, that noble king with his table. We looking on the stand, with the fire in the boots. In my children with the rap, in the crazy with the beat. When I drop shit. Domani il palinsesto della radio sarà naturalmente movimentato rispetto a quanto scritto sul sito e quanto è la normalità del giovedì. Comunque credo che domattina qualcuno o qualcuna ci sarà in radio per la rassegna stampa e per invitarvi poi tutti sotto Re Bibbia. Sarà Attica Blues, sì, in versione doppia addirittura. E poi vedremo come andrà il palinsesto. Non riusciremo, credo che è comunicazione di poco fa, a intrattenervi anche alla mezzanotte. Vabbè, comunque dai, col nuovo anno ingraneremo di nuovo la marcia. Come diceva qualcuno che ci chiamava e ci chiama sovente in radio, la marcia indietro o la retromarcia. Va bene, non le facciamo finita così. Monique lo de vanity up on vanity, no. Winning love gone, winning in the love gone. Aye yo love gone, me lo le pe de gone. Money o kere gone. Why you gone de, why you my ya be pe o te tongue gone. And you me lo. E anche per questa ultima puntata dell'anno vi lasciamo sotto la luna comunista. Dai, we need love, integrity, let's live together. Let's live with unity, we know the freedom. In sick of liberty, got a family in Nigeria. We trust in Europe to put food on the table. Just to make things work out fine for us to live fine. Just to make things look good for us to live in a good condition. Good environment, good facility, electricity. Let's make one mind and live together. Peace of mind, let's live with a peace of mind. With unity, take my fall. Africa to the world, Africa to the world. Olu Messi Mizu, bravo Neil. Got it, got it. It comes everywhere, it comes all over. comes to radical minds. I'll share our dreams under a communist moon.